Ecco, sottosegretario, prima di tutto, quanto ha inciso anche la ristrettezza finanziaria e economica del nostro paese, l'aver dovuto fare una seconda manovra e forse non l'ultima? Il ragionamento è, visto che ognuno dei nostri paesi sta esercitando una funzione di riduzione delle spese all'interno del proprio bilancio e di adeguamento dei saldi di bilancio alle nuove realtà, è chiaro che quello che facciamo nei singoli paesi deve ritrovarsi anche a livello europeo. Ma non ho capito, mi scusi, è per dire se tutti tagliano, tagliasse anche Bruxelles, o è perché noi ci troviamo a dover tagliare in finanziaria più di quanto non immaginassimo a luglio e quindi voi chiedete a Bruxelles di ridurre poi quello che è il loro budget complessivo? La richiesta non è fatta solo dall'Italia, è fatta da 8 paesi. No, ho capito, ma siccome l'Italia è arrivata oggi, volevo capire se... No, l'Italia è arrivata oggi perché oggi si è riunito questo gruppo, che è un gruppo informale che si è riunito prima della riunione del bilancio per stabilire in linea di massima una posizione comune. Quindi lei dice, insomma, non è la conseguenza diretta della nuova manovra italiana? No, non è diretta, ma è certamente collegata, è inutile negarlo, insomma, mi pare evidente. Un paese che fa una manovra da 50 e passa miliardi, è chiaro che quando poi va in Europa, a cui dà un contributo, chiede all'Europa perlomeno di avere un comportamento lineare e coerente con quello dei singoli paesi membri.